Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 21 marzo 2015 è nata a Torino la macchina irroratrice intelligente che colpisce solo dove serve. Funziona grazie a sensori che leggono non solo la presenza della pianta, ma anche i sintomi di eventuali attacchi infestanti sulle viti o sugli alberi da frutta. E così, grazie all'elettronica, l'erogazione dei fitofarmaci avviene senza sprecarne una goccia, con ovvi benefici per il portafogli e per l'ambiente. La prima versione industriale di questa innovativa macchina irroratrice è stata presentata oggi, ma la sua origine risale a circa 3 anni fa ed è molto torinese. È nata infatti grazie al lavoro del gruppo di ricerca guidato dal docente dell'Università di Torino Paolo Balsari, in partnership con l'Università olandese di Wageningen e con il centro di ricerca polacco di Cernice. Ora dai laboratori si passa alla produzione in serie. Presto la vedremo in azione nelle vigne e nei frutteti. Fin qui la notizia del 20 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, nel 2012. Paolo Balsari, docente del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale dell'Università di Torino, ha ideato e messo a punto l'irroratrice all'interno del progetto ISAFRUIT del 6° programma quadro dell'Unione Europea. Abbiamo proprio sviluppato, nell'ambito del mio centro di ricerca, dell'IAFA dell'Università di Torino, della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino, una macchina irroratrice che è in grado di riconoscere attraverso una serie di sensori la presenza o meno del bersaglio, quindi riconoscere anche ai primissimi stadi molto precoci la malattia e quindi andare a distribuire il prodotto chimico solo dove è presente la malattia, solo dove c'è effettivamente il bersaglio da colpire, quindi dove c'è la pianta da colpire, e quindi garantendo una notevole riduzione dell'impiego del prodotto chimico. Quindi un risparmio economico, tutto quello che oggi non va sul bersaglio va a finire sul terreno e quindi può generare potenzialmente delle forme di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei, e quindi il fatto di riuscire a individuare il bersaglio, caratterizzarlo e garantire una corretta distribuzione solo in presenza del bersaglio, ovviamente, oltre a portare a un risparmio di prodotto, consente anche di ridurre i potenziali danni ambientali. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.